Allora, un cordiale benvenuto a tutti quanti, grazie di essere qui con noi, un saluto anche da parte dell'assessore Tommasini. La biblioteca provinciale da qualche anno appunto si sposta nella città con le iniziative, con la promozione alla lettura e soprattutto con gli incontri con l'autore e con l'autrice. Questa serata, come la precedente di lunedì, è dedicata in particolare alla storia di Bolzano, una storia precisa, ben circoscritta, che riguarda la Seconda Guerra Mondiale e un aspetto che è quello dei bombardamenti, quindi di una diciamo tematica che forse per certi versi ci può di nuovo collegare. Noi non abbiamo dei ricordi, almeno parlo delle nostre generazioni, ma alcuni di voi forse erano piccoli e potranno avere in mente quello che può essere stato il sentire un avviso, sentire un aereo che arriva, il fuggi, il rincorrere lì dentro in questi rifugi e comunque tutta una tensione che accompagnava una paura. Oggi questi tipi di bombardamenti non sono avvisati, non sono preavvisati, ci affrontiamo un terrore completamente nuovo, ma sempre di violenza e di guerra si tratta purtroppo. Quello che può essere interessante invece in questi tipi di incontro è proprio la ricostruzione storica, il ricorso alle immagini, alle fotografie, a una documentazione molto suggestiva e molto interessante che ci aiuta così a capire com'era la città, com'era la vita e cosa è stata la Seconda Guerra Mondiale qui da noi. Ringrazio questa sera la presenza appunto della sua presenza e del libro che ha scritto Andrea Puzza, che è un collega della provincia, lavora all'ufficio patrimonio, ma ha una grande passione per tutto quello che riguarda rifugi antiaerei, l'aeronautica, la fotografia, che ha passioni che ha messo anche a disposizione della sua professionalità, diciamo, no? Nel lavoro sei riuscito anche a concretizzare questi talenti. È con noi Ettore Frangipane, autore di numerose pubblicazioni di successo, sempre nell'ambito storico, della storia locale, premiato anche recentemente per il suo libro su Garibaldi. È una serata quindi promettente, interessante. Vi ricordo che sulle sedie ci sono anche le cartoline dei prossimi appuntamenti. In biblioteca ogni venerdì pomeriggio dalle 15.30 alle 16.30 organizziamo degli incontri per far vedere come utilizzare la piattaforma, come scaricare i giornali che mettiamo a disposizione gratuitamente attraverso il nostro sito e anche per illustrare altri servizi, quindi chi fosse interessato può telefonare e prenotarsi, è un'ora di istruzione, di document, di information literacy ed è assolutamente gratuita, se vi fa piacere, ogni venerdì dalle 15.30 alle 16.30. Altri appuntamenti ci sono appunto quelli di lunedì prossimo, sempre qui al Centro Trevi, la presentazione del libro La catena delle stelle con l'autrice Federica Mormando accompagnata da Bruna Maria dal Lago Veneri. E ancora con Bruna Maria da Lago Veneri e un'altra autrice, Laura Zanetti, ci ritroveremo in via Dalmazia al Teatro Cristallo giovedì 28 aprile per la presentazione del libro Partivamo a marzo. Ecco, questi sono i nostri futuri appuntamenti. Vi lascio in compagnia dei nostri due ospiti che ringrazio ancora e auguro buona piacevole serata. Grazie. Come diceva Pagliaccio nell'opera di Leoncavallo, io sono il prologo. Sono il prologo nel senso che ho scritto l'introduzione, la prefazione del libro di Andrea Pozza e che parlo per primo, brevemente, per introdurre il tema che non è un tema nuovo, come avete visto delle nome di Bolzano si è parlato e scritto più volte in tempi recenti, in passato si rimuoveva, ne ho scritto e parlato anche più volte io, e Andrea Pozza torna sul tema trattandolo però in un profilo, sotto un profilo diverso. I bombardamenti a Bolzano sono stati praticamente rimossi, non se li ricorda più nessuno di quelli che non li hanno vissuti, e chi li ha vissuti come me li considera un fatto talmente lontano da sepolto ormai nelle latebre della memoria, come si suol dire, no? Eppure sono stati bombardamenti del 2 dicembre del 2 settembre, anzi ce n'è stato uno prima, del 1943 a buona parte del 1945, fino, cioè a che la guerra non si è conclusa, che hanno prodotto danni enormi a Bolzano. Ho qua un breve appunto per ricordarvi i dati colti dal Genio Civile a conclusione della guerra. C'era il Genio Civile una volta che non c'è più, adesso c'è la provincia. Furono rasi al suolo a Bolzano 325 edifici, che non sono pochi. Gravissimamente danneggiati altri 548, che non sono pochi. Comunque danneggiati altri 1395 edifici, tra cui casa mia, tra parentesi. E fu una bella devastazione. Bolzano, nel Triveneto, fu la città seconda soltanto a Treviso come danni da bombardamenti. Il 62% delle case di Bolzano è stato toccato. Treviso fu più gravemente colpita, perché i morti a Treviso furono ben oltre 2.000-2.500 in un solo bombardamento, questo è da dire. Mentre a Bolzano sono stati oltre 250 civili più i militari germanici. Bolzano, come si scriveva e si è scritto sul giornale Alto Adige nell'immediato dopoguerra, aveva subito tali bombardamenti che, scrisse il cronista, ci vorranno, non basteranno 100 anni perché la città sia ricostruita. E non è stato così, per grazia di Dio la città è stata ricostruita rapidamente. Oserei dire una cosa che sembra, può sembrare una battuta, ma forse non lo è, troppo rapidamente, nel senso che non si è lasciato uno spazio ai ricordi. Non c'è a Bolzano un solo edificio, non è sopravvissuto nella sua interezza o quasi interezza a ricordarci cos'è stato Bolzano. Pensate che si è conservato, si è conservata l'ultima casa semirurale in via Bari. A Bolzano è tutto bello, tutto nuovo. Solo in piazza Mazzini ci sono alcune cosette buttate là, senza neanche spiegare bene cosa siano. Sono pezzi delle colonne del teatro che si trovava nel parco della stazione. E poi c'è anche nel parco della stazione una testa di leone che buttava acqua in una fontana. Solo che, per essere originale, l'architetto che ha progettato piazza Mazzini, anziché piazzarla in questa testa di leone semidanneggiata dalla guerra verticale, come era, l'ha messa orizzontale, con il risultato che serve adesso da contenitore di spazzatura. Che non è una bella conclusione. Io avevo proposto sul tempo al comune di raggruppare queste cose che ci sono tuttora, ci sono dei ruderi, dei residui alla giardineria comunale, dei putti per esempio, dei putti di tre grandi, non so, un paio di metri, che sono là tra le ortiche. Si potrebbe farne una specie di revival, un ricordo, no? E il mio consiglio è affrontato soltanto una o due frammenti di colonne che potete vedere in piazza nel parco della stazione, con un cartellino che spiega che lì una volta c'era il teatro. Ecco, questo è per dire come le cose cambiano, no? Tutte queste grandi distruzioni, e poi alla fine quello che resta è il ricordo, che si va sempre sempre più snebbiando. Pensate a città come Dresda, come Nagasaki, che sono state rase al suolo, e sono tutte belle nuove, limpide. Sì, è bene che sia così, però i ricordi vanno anche sostenuti. Il libro di Andrea Pozza ci parla di un altro aspetto, l'ho detto prima. Non è proprio il discorso sulle bombe di Bolzano, ma sulla Bolzano nascosta, che noi non conosciamo e che si trova tuttora sottoterra, e la Bolzano dei rifugi aerei. Ci sono gallerie nella montagna del Gulf, Cucina, gallerie a Sant'Osvaldo, la stessa galleria del Virgolo, se volete, era del Fuggentiero, cioè era una galleria, un tunnel adattato a fabbrica che si fabbricavano durante la guerra, cuscinetti a sfere e a rifugio della popolazione, ma anche sotto le case, per esempio in via in piazza Matteotti, quello della poi Andrea, ci sono delle cose curiose. Sì, ma ci sono le strutture che sono state costruite proprio in funzione antiaerea per la protezione della popolazione. Io l'altra parentesi ero bambino e mi ricordo, apro una parentesi brevissima, le scuole Regina Elena, un giorno fecero una prova d'allarme aereo e noi bambini fummo tutti convogliati nella cantina, o meglio cantine, che erano state attrezzate a rifugio antiaereo. Mi ricordo di quell'episodio, il fatto innanzitutto che fu un fatto nuovo che colpisce sempre i bambini, scendere tutti le scale forciando in grande disordine per andare in cantina a scoprire chissà che cosa, e scoprimo le cantine semisommerse, cioè rinforzate da pali di legno e difese da sacchetti di sabbia, una cosa che mi colpì moltissimo. Ci sono tanti di queste cose altrove. Andrea Pozzo ha parlato ha scritto e parlato dei rifugi antiaerei, ma anche della cosiddetta di altra difesa antiaerea attiva, la contraerea e tutte queste cose che sono argomenti non sufficientemente vasti quanto a illustrazione, non è avvenuta una illustrazione sufficientemente vasta sul tema, e a questo sopperisce lo scritto di Andrea Pozzo, qui adesso cedo il microfono. Vi ringrazio per l'attenzione e sentiamo cosa ci racconta Andrea. Buonasera a tutti, benvenuti. Innanzitutto ringrazio la biblioteca, Valeria, che ormai ci conosciamo da tanto tempo, per avermi dato ancora la possibilità di presentare uno dei miei lavori. Ringrazio Francipane, che è un po' la memoria storica di questo libro, perché se io ho potuto cercare negli archivi, ho potuto andare a vedere quello che ancora oggi esiste in città, sicuramente lui ha vissuto questi momenti drammatici e quindi ha potuto dare un contributo di ricordi e testimonianze che poi valgono più di tante carte che si trovano negli archivi. Ha fornito anche le fotografie storiche che troverete dentro questo libro, e quindi lo ringrazio per la bellissima collaborazione che c'è stata. Io mi sono occupato di bunker, di fortificazioni, già da, diciamo, sono partito nel 2005 a studiare i bunker dell'Alto Adige, i bunker del Vallo Alpino, poi mi sono spostato sulle creste di confine, sono andato a studiare le strade militari, le postazioni della GAF che si trovano lungo i confini della nostra provincia, e adesso sono arrivato a Bolzano, sono tornato a casa, ho iniziato a trovare documentazione anche di questi rifugi, e quindi ho deciso di approfondire sia lo studio ma anche la documentazione fotografica, perché a me piace proprio andare a riscoprire questi posti e a fotografarli come oggi li troviamo. Io mi sono fatto un po' di appunti perché mi trovo a mio agio con la macchina fotografica, ma un po' meno a mio agio a parlare con le persone, quindi scusate se leggerò qualche appunto. La storia inizia nel 1928 con la Commissione Internazionale di Protezione Antiaerea Italiana, che redige il primo regolamento per la difesa contraerea del territorio nazionale. La difesa contraerea del paese si suddivideva in due specie: avevamo la difesa contraerea attiva e la difesa contraerea passiva. La difesa attiva era affidata all'aviazione principalmente, ma anche alle armi contraeree, e le quali dovevano agire direttamente sugli aerei che attaccavano e che sarebbero venuti a bombardare le nostre città. La difesa passiva, invece, che poi era l'oggetto specifico del regolamento, si occupava della protezione degli obiettivi da difendere, allo scopo di limitare la possibilità degli attacchi e circoscriverne gli effetti. Le principali forme di protezione che troviamo contemplate in questo regolamento sono innanzitutto la propaganda, il servizio di propaganda, il servizio di allarme, il mascheramento e l'oscuramento degli obiettivi, ovviamente i ricoveri antiaerei e poi tutto quello che riguarda la protezione sanitaria, antincendi e antigas. E in ultimo anche la tecnica costruttiva antiaerea. In ogni provincia viene istituita una commissione di difesa passiva, coadiuvata a livello comunale da delle sottocommissioni. Queste commissioni dovevano occuparsi del progetto di difesa passiva delle varie località e dovevano redigere un vero e proprio progetto tecnico. Questo progetto conteneva ovviamente la località da difendere, l'entità e la specie delle difese da adottare sia in tempo di pace che anche in tempo di mobilitazione. Si viene così a sviluppare per tutta l'Italia la nuova edilizia controaerea, allo stesso modo di quanto era già avvenuto in passato con l'edilizia antisismica nelle regioni terremotate. Nelle città, sì, leggo qualcosa che ho preso fuori da questi regolamenti, nelle città si dovrà aumentare nella maggior misura possibile l'area scoperta mediante la realizzazione di piazze, larghe strade, giardini eccetera, al duplice scopo di ridurre il numero dei colpi utili in caso di bombardamento e rendere possibile soprattutto la costruzione di molti ricoveri provvisori all'atto della mobilitazione. La pianificazione urbanistica della Bolzano Nuova, che noi tutti conosciamo molto bene, costituisce proprio un valido esempio di questa nuova filosofia costruttiva. Qui vediamo una cartolina dell'epoca, quella che è Piazza Vittoria e Corso Libertà, quindi noi abbiamo proprio un valido esempio di questa metodologia costruttiva dovuta proprio alla possibilità di cercare che le bombe facessero il meno danno possibile. Infatti i danni più grossi sono stati nel centro storico, dove ovviamente una bomba ha raso al suolo molti edifici, no? Per i cittadini dell'Alto Adige l'incubo dei bombardamenti incomincia la guerra già iniziata, e precisamente il 2 settembre del 1943 con il primo bombardamento della città. Tuttavia, già a partire dagli inizi degli anni 30, nella città di Bolzano, come in molte altre città italiane, iniziano i lavori per la predisposizione di rifugi antiaerei per la popolazione civile. Numerosi accenni a questi interventi sono reperibili tramite la consultazione della stampa locale, di cui Frangipane ha fornito un bellissimo elenco nelle sue pubblicazioni. Già nel 1933 troviamo un primo riscontro sul quotidiano locale La Provincia di Bolzano, che parla di edilizia antiaerea, anche se non vi è una vera e propria legislazione in merito. Il regolamento per la protezione antiaerea del territorio nazionale e della popolazione civile viene approvato e diventa esecutivo infatti l'anno successivo, con il regio decreto del 5 marzo 1934. Qui vediamo, mentre parlo io faccio andare un po' di diapositive, questo ad esempio è un documento che ho recuperato all'archivio storico del comune di Bolzano. Questo è il progetto dei rifugi antiaerei che erano stati previsti e ci sono tuttora alle case Incis, quelle di via Firenze, via Verona, tutto quel gruppo di case che conosciamo penso tutti. Nel 1935 iniziano in città i primi esperimenti di protezione antiaerea, mentre l'anno successivo, nel 1936, con il regio decreto numero 1062 del 14 maggio, viene approvato lo statuto dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea, chiamata anche UNPA. Qui vediamo il distintivo. Con il regio decreto numero 2121 del 24 settembre 1936 vengono sancite le norme circa l'obbligo dell'apprestamento di un ricovero antiaereo in ciascun fabbricato di nuova costruzione o in corso di costruzione, ad uso di abitazione. Quindi dal 36 in poi diventa obbligatorio per ogni nuova casa o casa già in costruzione predisporre un rifugio antiaereo. Il decreto riporta anche, è molto interessante, riporta anche le norme principali per la realizzazione degli stessi. Poi lo trovate riportato all'interno del libro. Fin dall'autunno del 37, quindi subito l'anno successivo, l'ufficio lavori del genio militare aveva provveduto all'installazione a Bolzano di un impianto di sirene d'allarme. Sirene che prima coprivano solo il centro e poi si sono ampliate e sono arrivate fino alla zona industriale. Questa che vedete purtroppo non è a Bolzano, perché a Bolzano hanno veramente cancellato ogni, come ha detto prima Frangipane, hanno cancellato ogni minimo riferimento a quel periodo, quindi è stato veramente difficile trovare, anche dopo magari vi farò vedere delle foto, trovare qualche segno di questo sistema. Però questa è la sirena antiaerea, che tuttora esiste, adesso questa è una foto vecchia, adesso l'hanno restaurata, ed è alle Acciaierie di Milano, quindi allo stabilimento Acciaierie qui a Bolzano c'era una sirena uguale identica a questa. Con la legge numero 2224 del 22 dicembre del 38 si approva la disciplina della costruzione dei ricoveri pubblici antiaerei, quindi adesso non solo più i ricoveri privati sotto le case, ma da questo momento in poi, quindi dal 38 in poi, anche i ricoveri pubblici. Nel fascicolo quinto delle istruzioni sulla protezione antiaerea, pubblicato dal Ministero della Guerra nel 1938, troviamo interessanti informazioni in merito alla cubatura e durata limite di abitabilità di questi rifugi. Un locale chiuso, senza rinnovamento d'aria, è abitabile sino a che la quantità di ossigeno in essa contenuta non scenda sotto il 15% e quella di anidride carbonica non superi il 3% della cubatura del locale. In caso quindi di cubatura non sufficiente, come nella maggior parte dei casi, perché questi rifugi ovviamente non erano molto grandi e poi dovevano ospitare molte persone, per garantire la sopravvivenza degli occupanti per più ore si deve ricorrere all'installazione di apparecchi per la rigenerazione e il filtraggio o ventilazione dell'aria. Questa è parte dell'impianto del rifugio che abbiamo in Piazza Matteotti, che prima è stato citato. Per garantire il funzionamento di questi sistemi di areazione e ventilazione, anche in caso di interruzione della fornitura di corrente elettrica, cosa che avveniva ogni volta quando c'era un bombardamento, vengono installate delle apposite biciclette. Qui vedete c'è anche un estratto della pubblicità della ditta che vendeva queste biciclette. Funzionano come le ciclette, cioè uno sale su, pedala, c'è un volano che gira e questo volano produce la corrente necessaria per mettere in funzione tutti gli impianti. Importante informazione ai cittadini sulle modalità di realizzazione dei ricoveri antiaerei negli edifici esistenti vengono impartite sulla provincia di Bolzano del 5 settembre del 1939. Ricoveri di fortuna dovranno essere ricavati nei locali scantinati con la massima resistenza statica che soddisfi le condizioni di sicurezza di crollo dalle schegge e dagli aggressivi chimici. A tale scopo dovranno essere previsti il rafforzamento della copertura e delle parti mediante l'utilizzo di legname stagionato e asciutto per il puntellamento. Quindi dal 39 in poi si comincia anche a pensare di rinforzare le cantine esistenti, perché evidentemente la paura dei bombardamenti si fa sempre più intensa e quindi non solo più la costruzione dei rifugi nuovi, ma anche l'adattamento di quello che abbiamo, quindi soprattutto pensato per gli edifici vecchi del centro storico. Come ha detto Frangipane prima, nel novembre del 39 iniziano i lavori di realizzazione del trafollo del Virgolo, 700 metri di galleria che diverrà negli anni successivi il più grande rifugio antiaereo cittadino, in grado di ospitare fino a 8.000 persone. Intanto nella città continua l'apprestamento dei rifugi, frecce indicatrici dei ricoveri antiaerei in ogni angolo di strada e cartelli con la scritta rifugio e la freccia indicante la direzione. Anche questi ormai a Bolzano non si trovano più, io ho girato veramente a cercarle dappertutto. Queste sono a Milano, dove, contrariamente a quello che avviene a Bolzano, stanno rivalorizzando molto questo periodo, quindi stanno restaurando le vecchie scritte, stanno aprendo rifugi, stanno facendo veramente un lavoro di memoria encomiabile. Forse ce n'erano di più, forse c'erano più scritte, sta di fatto che a Bolzano sono riusciti a cancellare anche quelle. Sempre grazie alla provincia di Bolzano del 21 giugno del 1940 troviamo un primo elenco sui rifugi cittadini. Complessivamente sono stati contrassegnati 33 rifugi pubblici, ai quali vanno aggiunti quelli esistenti nelle case di nuova costruzione nella Bolzano Nuova, che sono oltre una ventina. Il numero dei rifugi è però suscettibile di ulteriore aumento, in quanto un'apposita commissione è al lavoro per esaminare ulteriori ambienti che potrebbero essere adattati a tale scopo. Anche all'interno degli stabilimenti della zona industriale, come ho detto prima, vengono approntati idonei rifugi antiaerei per il personale che lavorava nelle fabbriche. Oltre ai rifugi, vengono approntate anche delle trincee nei giardini pubblici cittadini, come nel caso di quella che c'era di fronte alla stazione, nei giardini che ben conosciamo, di cui oggi non c'è più traccia. Comunque lì esisteva una trincea molto grande, ci sono dei riferimenti proprio sui giornali che parlano proprio del funzionamento e di come questa trincea avrebbe ospitato le persone in caso di bombardamento. Questi servivano più che altro per ospitare le persone che erano in giro, no? Perché chiaramente chi era in casa, chi era al lavoro, chi era nelle fabbriche aveva il suo rifugio, ma al momento dell'allarme chi si trovava in giro per la città o andava ai ricoveri pubblici oppure si rifugiava in queste trincee, c'era in piazza Matteotti, insomma un po' dappertutto dove c'erano giardini e piazze avevano anche predisposto queste trincee. Di queste purtroppo non c'è più niente, non è rimasto niente, anche perché poi dopo alla fine della guerra quello che è stato recuperato, il legname e tutto quanto, è stato veramente, le trincee sono state chiuse, quindi non abbiamo più traccia oggi. Voglio dire due parole in merito al trincerone del parco della stazione, ed è scritto dalla provincia di Bolzano. Sì, ma c'è anche nel libro. C'è nel libro ed è molto bello perché è descritto in maniera elegiaca, entusiastica, bucolica, no? Dice che quel trincerone è civettuolo. Il termine esatto, come sì. Civettuolo è bello andarci praticamente, no? Peccato che in quell'ambiente civettuolo morirono decine particolarmente di soldati germanici alla faccia della civetteria. Allora andiamo avanti con il Regio Decreto numero 600. Io vi do un po' di numeri, non vi racconto tutto perché sennò poi dopo nessuno prende più il libro, quindi vi do solo degli spunti per invogliarvi poi a leggere anche questa bellissima descrizione del trincerone dei giardini, cioè è riportata integralmente, quindi se poi qualcuno se la vuole leggere è veramente molto bella. Con il Regio Decreto numero 632 del 18 giugno 1940 si è provveduto nel frattempo alla militarizzazione dell'Unione Nazionale Protezione Antiaerea LUMPA. Siamo ormai prossimi allo stato di guerra e LUMPA viene posta alla diretta dipendenza del Ministero della Guerra. Mentre nel sottosuolo cittadino e nelle principali città italiane si continuano a realizzare ricoveri e rifugi antiaerei per la popolazione, la protezione delle città contro le incursioni aeree è assicurata da un apposito apparato della Milizia Volontaria di Sicurezza Nazionale. Questa specialità nasce il 16 aprile del 1927 con il nome di Milizia Artiglieria Contraerei. Nel 1930 viene ufficialmente costituita in Italia la Difesa Aerea Territoriale. La milizia è costituita su 22 legioni che si dividevano il territorio dello Stato secondo l'importanza delle città e degli obiettivi militari da difendere contro l'offesa degli attacchi aerei nemici. Qui abbiamo diverse fotografie reperite in giro, perché in quegli anni lì chiaramente si faceva molta propaganda sull'efficienza sia dell'esercito che anche della milizia, anche per invogliare sempre più persone ad arruolarsi volontariamente. Quindi troviamo molte documentazioni, troviamo anche dei filmati dell'Istituto Luce che fanno proprio vedere le grandi manovre e fanno vedere come il nostro sistema di protezione antiaerea fosse molto, molto efficiente in quegli anni. Anche attorno alla città di Bolzano, come nelle altre città italiane, vengono approntate delle postazioni controllate dalla milizia. Quattro batterie antiaeree avevano preso posizione sulle montagne circostanti la città. Inoltre, nell'immediata periferia della città e nei pressi dell'aeroporto di San Giacomo, vengono predisposte ulteriori postazioni mobili. Per allestire le postazioni dislocate sulle alture attorno a Bolzano, qui vediamo, questa è la vista della città dalla postazione FLAC che troviamo prima di Icat e poi FLAC che troviamo a San Genesio. Allora, stavo dicendo, per allestire le postazioni dislocate su queste alture, il comando Icat aveva utilizzato tutti i mezzi possibili, tra i quali ripetutamente anche le funivie esistenti del Renault, del Colle e di San Genesio, che si erano servite prima per la costruzione e poi per il trasporto delle munizioni. Visti i disastrosi bombardamenti già subiti da molte città settentrionali, anche a Bolzano ci si rende conto che i rischi sono altissimi. Qui vediamo alcune postazioni tuttora esistenti sul Renon e anche sulla zona di Cornedo, proprio sopra l'abitato qui. Il comune di Bolzano decide di mobilitarsi con i suoi uffici tecnici, predisponendo progetti per adeguare il numero dei posti in ricovero ai bisogni della popolazione. Vengono così elaborati i progetti per 5 grandi nuovi ricoveri pubblici in galleria. Adesso non più solo sotto le case, ma si inizia a scavare anche dentro nelle montagne, anche perché si ha la possibilità di creare dei rifugi molto più grandi. Vengono così elaborati, appunto detto, 5 progetti per 5 rifugi. Uno a Gries, nella zona est della funicolare del Guncina, un altro ad Oltrisarco, dove c'è la via Rovereto, uno a Santo Svaldo, ai piedi del Monte Tondo, uno a San Giacomo e un quinto, sempre a Gries, dove però non si trova alcun riscontro, ma potrebbe essere quello tuttora esistente dietro la caserma di via Vittorio Veneto, che poi vedremo. La costruzione di questi rifugi fu approvata con lettera del 25 febbraio 1943 dalla Direzione Generale Servizi per la Protezione Antiaerea del Ministero dell'Interno, che se ne assunse anche il costo. Ecco, questa è la grandissima galleria che c'è nella montagna proprio dietro alle caserme di via Vittorio Veneto. Si accede dall'interno delle caserme, si accede per entrare. Con il regio decreto legge del numero 39 del 18 febbraio 1943 vengono approvate le norme per l'apprestamento di ricoveri antiaerei anche negli edifici di vecchia costruzione. Adesso passiamo a quella successiva, eccola qui. A giugno del 43 il peggioramento della situazione generale porta un nuovo impulso ai lavori. Si eseguono gli interventi di rifinitura interna del grande rifugio del Virgolo, si procede alla sistemazione definitiva dei rifugi esistenti e alla fase conclusiva della costruzione dei rifugi in caverna. Qui ne vediamo alcuni, sono sempre alcune immagini che vengono dal rifugio di via Vittorio Veneto e un paio che vengono anche dal rifugio che troviamo in via Monte Tondo. Questa è un'immagine emblematica, purtroppo non è un rifugio di Bolzano, perché anche qui è stato per me impossibile trovare un'immagine, se però qualcuno ne possiede, siamo qui anche per raccogliere immagini nuove, no? Informazioni nuove. Questo è un rifugio antiaereo che c'era a Milano, ma la situazione comunque all'interno era la stessa, insomma, in tutte le città italiane è stato vissuto. Io ho parlato con dei testimoni anche a Milano e quello che mi hanno raccontato è lo stesso che si sente un po' dappertutto, insomma, anche qui a Bolzano. Il 27 luglio del 43, a seguito della sfiducia di Mussolini da parte del Gran Consiglio del Fascismo, l'autorità militare assume la tutela dell'ordine pubblico del territorio della nostra provincia. Viene istituito il coprifuoco dal tramonto all'alba. Il 2 settembre Bolzano subisce il primo bombardamento aereo. 20 minuti circa dopo il segnale d'allarme, 25 bombardieri provenienti dalla Valle dell'Adige a quota 3000 fecero sentire il loro rombo e subito le armi della contraerea entrarono in azione. Spostatisi sulla destra della valle, gli aerei nemici sganciarono le loro bombe sulla zona di Loreto, lungo tutta la via Garibaldi, in viale Vittorio Emanuele, oggi via Stazione, e in via Macello ai piani di Bolzano. Altre bombe, tutte dirompenti, sono cadute nella zona delimitata da via Garibaldi, via Vittorio Emanuele e via Verdi. Nei giorni successivi la situazione in Italia precipita e l'8 settembre il governo italiano chiede l'armistizio. L'esercito è al collasso e i tedeschi si impossessano della città. Qui vediamo una truppa, un camion della contraerea tedesca, che nel frattempo era subentrata alla contraerea italiana, perché chiaramente da questo momento in poi la città viene completamente organizzata e difesa dalle truppe tedesche. Il 25 settembre Bolzano subisce un secondo bombardamento aereo. Dopo l'unificazione delle tre province di Trento, Bolzano e Belluno nell'Alpenvorland, gli attacchi da aerei da parte degli alleati furono compiuti in due distinte fasi strategiche. Da settembre del 43 fino all'inizio dell'estate del 44, le incursioni vennero effettuate dalla 15ª forza aerea americana che partiva dal sud Italia. Mentre per la seconda fase strategica delle incursioni, iniziata nell'autunno del 1944, dando vita alla famosa battaglia del Brennero, furono impiegati bombardieri appartenenti sia alla 12ª che alla 15ª forza aerea americana, che provocarono la completa messa fuori uso della linea ferroviaria del Brennero. Tra il 6 novembre del 44 e il 2 maggio del 45 gli attacchi effettuati furono complessivamente 370, a cui parteciparono 6.839 aerei, scaricando da Verona a Innsbruck 10.367 tonnellate di bombe, diverse dalle quali caddero anche qui sulla nostra città. Vano fu il tentativo dei tedeschi di raddoppiare la presenza della FLAC, che come detto subentrò alla Dirkat durante il periodo dell'Alpenvorland. Anche la FLAC era praticamente aveva gli stessi compiti, quindi avvistamento e contraerea. Nel marzo del 1945 erano piazzati sulla linea del Brennero ben 525 cannoni. Presso quest'ultima organizzazione militare furono utilizzati, sempre attraverso la chiamata obbligatoria al servizio di guerra, anche diversi cittadini altoatesini. E anche in questo caso si trovano diverse testimonianze ancora che raccontano questi momenti tragici. Attorno a Bolzano l'artiglieria contraerea tedesca si insedia nelle postazioni già della Dirkat e provvede alla realizzazione di nuovi siti. È certa la sua presenza a San Genesio, Renon, Corneto, Colle e sul monte Macaion, grazie alle vistose rovine ancora esistenti ed alcune testimonianze dirette. Qui vediamo la foto a sinistra, è praticamente un basamento su cui veniva installato un apposito strumento che si chiamava telemetro, che serviva per misurare la distanza degli aerei che arrivavano da lontano, per poi fornire le coordinate e la distanza esatta ai cannoni della FLAC. A destra sopra abbiamo la postazione molto bella che c'è sul monte Macaion, mentre quella sotto è la postazione che si trova al monte Pozza, qui sopra, vicino al colle. Non è mio, il monte non è mio, si chiama come me, ma... (ride) allora. Il 4 ottobre del 43 Bolzano viene nuovamente bombardata. Qui vediamo proprio la foto che mi ha fornito Frangipane, che è proprio la foto di quel bombardamento lì. L'allarme dura dalle 11.45 alle 16.40. Furono due le ondate di bombardamenti, la seconda sorprese la popolazione all'uscita dei rifugi. Numerose furono purtroppo le vittime. 64 bombardieri B-17 riversarono sulla città 165 tonnellate di bombe, che caddero un po' dappertutto, e principalmente nella zona della stazione ferroviaria. A distanza di una settimana, il 10 novembre, le sirene suonarono nuovamente e Bolzano subisce un quarto bombardamento alle 11.05. Bombardamento che si svolse anche questa volta in due tempi, a distanza molto ravvicinata. Durante questo bombardamento fu danneggiato gravemente il Duomo, che ancora oggi porta le ferite di quel giorno in fausto. Nella foto di destra vediamo proprio il Duomo bombardato, una foto che è stata fatta sicuramente durante i giorni della liberazione, perché possiamo vedere sotto ci sono dei carri armati americani che erano arrivati in Piazza Walter. Il quinto bombardamento, il 2 dicembre, ha conseguenze devastanti per la città. Obiettivo principale delle due ondate di bombardieri era di nuovo la stazione ferroviaria, ma le 94 tonnellate di bombe sganciate piovvero con un ampio raggio, da Ponte Talvera fino a Sant'Osvaldo. In questo attacco morì, centrato in pieno, anche il prefetto Peter Hofer, che aveva preso il comando della città. Il 15 dicembre suonarono nuovamente le sirene alle 12.20 e i bombardieri tornarono ad attaccare la zona della stazione con un raggio d'azione che partiva dal vecchio centro storico e si irradiava a tutta la periferia. Una bomba colpì la centrale elettrica del Brennero di Bolzano e interruppe la corrente su tutta la linea ferroviaria del Brennero. C'è una cosa che a sinistra, cioè l'immagine, non si sente? Torna dietro. L'immagine di sinistra, ecco. Riproduce questa? Sì, Piazza Walter, oggi si chiama Piazza Walter, allora Piazza Vittorio Emanuele III, subito dopo un bombardamento. Vedete a destra e a sinistra ci sono vigili del fuoco e la protezione antiaerea in attività, c'è ancora del fumo. Quella a destra invece è il Rainerum, che si trovava e si trova tuttora in via Carducci, e dopo un bombardamento che si risolse in un incendio. Andiamo avanti. Ecco, qui c'è ancora anche una foto di Piazza Walter, giusto? Questa sulla sinistra. Sì, a sinistra è Campofranco. Subito dopo l'incidente, sì. Un bombardamento. Non è proprio palazzo Campofranco, quella a destra si vede la terrazza, no? È l'angolo. Dove c'era il vario vento una volta, no? E a destra invece è il. Si sente meglio così, è il convento dei Francescani, che io trovai in queste condizioni quando scesi a Bolzano, la guerra conclusa, e incominciai e continuai a fare il chierichetto. Allora, il 13 maggio del 44 la città viene bombardata per la nona volta. Durante questo bombardamento, avvenuto nel primo pomeriggio, fu nuovamente colpito il Duomo, seriamente danneggiata la chiesa dei Domenicani e abbattuti molti edifici. Alcune bombe caddero appunto in Piazza Walter. Il 4 ottobre Bolzano subisce il suo decimo bombardamento. Anche in questo caso si hanno poche informazioni. Viene presa di mira sempre la linea ferroviaria, e quindi la zona della stazione, e cadono un centinaio di bombe che colpiscono il rione di Rencio e Cardano. Lo stesso giorno furono bombardate anche Ora, Pronzolo, Laibes e Fortezza. Il capoluogo viene bombardato nuovamente il 4 gennaio del 1945, colpito sempre il centro e la zona della stazione. Qui siamo in via Grappoli. Siamo in via Grappoli, sì. Il 16 febbraio Bolzano viene nuovamente bombardata, ma anche in questo caso non troviamo molti riscontri sulla stampa locale. Questa volta, oltre alla stazione e a numerosi edifici, fu colpito anche il municipio. c'è da dire che la stampa locale era affidata al Bozner Tagblatt, unico giornale che usciva, nazista naturalmente, che ignorava assolutamente i bombardamenti su Bolzano. L'unico bombardamento del quale ha parlato dicendo di un terror angriff fu quello del 2 dicembre del 43, quando morì Peter Hofer, no? Andava detto che bisognava dirlo. E poi ci furono anche manifestazioni di cordoglio a Bolzano, la salma di Peter Hofer, e ce ne furono altri 5 morti, erano delle SS che viaggiavano con lui. Fu portata nel municipio suoni di tromba e tutte queste cose qua, e nessuna presenza religiosa naturalmente, no? Tutto, e poi la sua salma, quello che restava della sua salma poi, perché la macchina sulla quale vediamo fu centrata in pieno in via Wittgenstein davanti all'ordine teutonico. Solo, ripeto, il giornale l'Indomani riferiva, cosa che ho rilevato, il sistema migliore per conservare le patate in cantina, ma non parlava di bombardamenti. Ecco, vedete quello che dicevo prima, come sono importanti queste testimonianze, perché io posso andare ad attingere ai dati tecnici, però poi ci vuole una fonte specializzata in questo caso. Numerose sono note le incursioni solitarie, genericamente notturne, compiute dagli alleati del nord Italia, su tutte le città del nord e ovviamente anche Bolzano. Fu impiegato un velivolo da caccia notturna denominato Pippo. A differenza dei grandi bombardieri che colpivano da alta quota, questo velivolo arrivava in volo radente, per evitare la contraerea ovviamente, sganciando bombe o mitragliando all'impazzata nel buio della notte. Queste azioni, questo è interessante, erano rese possibili dalle prime installazioni di apparecchi radar, che proprio con gli aerei di questo tipo compirono una sperimentazione su larga scala. Quindi abbiamo il primo tentativo di utilizzo di questo sistema, che era ancora agli albori ma che evidentemente ha funzionato, perché ha consentito a questi aerei di arrivare a bombardare di notte. Si diceva: questa notte è arrivato Pippo, vero? Anche perché si sentiva arrivare, no? No, io dormivo. Però il cinema corso era qualcosa di diverso all'inizio, era la sede dell'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano, divenne poi sede del Alto Commissariato per gli Affari Italo-Germanici. La sede Cinema Corso fu danneggiata da una bomba di Pippo in Corso Libertà. Sì, io ho sentito dire che arrivava da sopra la mendola, no? E poi arrivava per arrivare dietro nascosto, poi scendeva giù e arrivava proprio impicchiata con un fischio molto. Che le persone conoscevano, dopo le prime volte conoscevano, e si sentiva proprio arrivare nella notte questo aereo. Quello del 28 febbraio fu l'ultimo bombardamento di Bolzano, cui però, appunto, vennero sommate numerose incursioni solitarie di Pippo, che bombardò la città per circa 9 volte, almeno questi sono i dati ufficiali, diciamo, chiamiamoli così. In Alto Adige le vittime dei bombardamenti alleati furono almeno 300, di cui si stima 2/3 solo nel capoluogo altoatesino. Adesso non vi ridico di nuovo il numero delle case danneggiate, bombardate, perché ci ha già pensato Frangipane, però vi dico una cosa, che dopo la fine del conflitto il genio civile ha accertato che i danni causati dalle incursioni aeree su Bolzano hanno prodotto danni per 2 miliardi e 200 milioni di lire. Quindi parecchi soldi per quegli anni, no? Oggi numerose sono ancora le testimonianze visibili di questo periodo. Oltre alla facciata del Duomo ricostruita, che porta però ancora i segni delle bombe, numerosi sono ancora i ricoveri antiaerei esistenti, più o meno noti. Ricoveri antiaerei in roccia, appunto le gallerie scavate nelle pendici dei monti che circondano la città, che sono ovviamente i rifugi che si sono mantenuti meglio. Ricoveri tubolari, come vediamo sulla destra, che erano dei tubi di cemento realizzati sotto le piazze, nei cortili degli edifici della città nuova, di cui purtroppo esistono ormai pochissime testimonianze, perché per far posto ai garage interrati, molti di essi sono stati demoliti. Io mi ricordo ancora sul giornale quando hanno demolito quello di Piazza Matteotti, che c'era avevano messo anche delle foto proprio quando hanno fatto i garage, sotto i garage interrati. Numerose sono le cantine in pietra o in cemento, interrate a uno o più piani, addirittura io ho visto alcune cantine private, di cui non posso mettere le fotografie, però ci sono molte cantine nel centro storico, che abbiamo queste cantine che scendono per più piani, dove la parte più bassa, più, chiaramente più sicura, era stata utilizzata come, come rifugio antiaereo. Poi abbiamo le cantine ricovero appositamente costruite per legge nelle nuove costruzioni dopo il 1936 o apprestate negli edifici di costruzione anteriore al 1936 in edifici pubblici e privati. Questo è il ricovero antiaereo che tuttora esiste, non so per quanto, perché è il ricovero antiaereo che troviamo nello scantinato della scuola Longone, che però ahimè è destinata alla demolizione, e quindi anche questa... anche questo ricovero sarà, sarà destinato a scomparire. Nelle delibere del comune di Bolzano, dal 1943 al 1946, che sono visionabili nell'archivio storico del comune di Bolzano, che ringrazio pubblicamente per il supporto che mi ha dato in questa ricerca, si trovano numerose informazioni relative alla costruzione dei ricoveri antiaerei pubblici nella città. I ricoveri pubblici realizzati a Bolzano furono una, più o meno una settantina, più o meno grandi, in grado di ospitare ben 32.000 persone. Sempre da, da un elenco reperito presso l'archivio storico, sono riuscito a risalire al numero esatto dei rifugi antiaerei che c'erano in città. Erano ben 902, compresi chiaramente i rifugi in galleria, i rifugi sotto le case, le trincee, quindi in totale c'erano 902 rifugi in città, che coprivano una superficie complessiva di circa 20.400 metri quadrati, quindi una bella superficie. Oltre a questi ricoveri ad uso civile, esistevano anche altri due ricoveri in roccia per uso militare, realizzati dai tedeschi durante il periodo di occupazione. Il rifugio Hofer di Via Fago, qui abbiamo proprio la, la, la, la planimetria, cioè la, la mappa, e alcune fotografie scattate all'interno, e poi esiste tuttora, diciamo, è stato trasformato, però avevamo un secondo rifugio, sempre costruito dai tedeschi, che oggi ospita il reparto di radiologia della clinica Bonvicini. Io a questo punto avrei terminato, vi ho tediato con date, numeri di circolari, vi ringrazio per essere stati così pazienti, penso che se qualcuno vuole fare qualche domanda siamo, siamo qui apposta, altrimenti vi ringrazio. Potrei aggiungere una cosa. Che nell'assenza di un po' per ricordare quegli anni e anche per ovviare all'assenza di locali per manifestazioni, alle volte sì, io avevo proposto tempo fa un museo dello sport altoatesino a Bolzano, che sarebbe molto interessante, se tenete presente che la provincia di Bolzano ha dato all'Italia oltre 36-37 medaglie d'oro olimpiche, quindi ci sarebbe da fare un bel museo per raccontare queste vicende. E mi ci risponde regolarmente: ma dove lo facciamo? Non c'è spazio. Questi sono spazi ristrutturati in maniera acconcia, potrebbero servire benissimo, e contemporaneamente si ricorderebbe quello che è stato l'unico spazio sotterraneo trasformato in rifugio quasi sotterraneo, che è stato rivalorizzato di recente, la cripta sotto il monumento alla Vittoria, che anche quello era un rifugio e che è stato molto ben ristrutturato. Ci potrebbero fare altre cose del genere. Questa era una chicca che avevo lasciato per chi voleva prendersi la briga di leggere il libro. No, ci sono moltissimi esempi, soprattutto negli ultimi anni, ne cito uno magari ad Almine, il rifugio antiaereo che c'era nella fabbrica dove vengono prodotti i famosi tubi d'Almine che vediamo tutti nei cantieri per fare le impalcature. Lì ad esempio hanno fatto una bellissima opera di rivalorizzazione proprio del rifugio antiaereo, l'hanno trasformato in un centro culturale dove si tengono conferenze, si tengono mostre e quindi cioè, è interessante che queste cose rimangano. Ovviamente sono tante, non si può chiaramente tenere tutto. Adesso spezzo una lancia a favore dell'ente per cui lavoro, nel senso che come provincia autonoma abbiamo iniziato a fare un lavoro di questo tipo. Noi ci siamo trovati, lo Stato ci ha passato un sacco di beni e sono arrivati anche circa 300 bunker del Vallo Alpino. Ovviamente è impossibile tenerli tutti, però abbiamo iniziato a fare un'opera di questo tipo, cioè sono stati scelti una ventina di bunker, che un po' per la posizione, un po' per la loro particolare conformazione, si prestano a un uso appunto sia storico ma anche culturale. Abbiamo fatto nel 2008 un progetto pilota che ha portato all'apertura di uno di questi bunker a Fortezza. Successivamente anche il comune di Resia si è interessato, ne ha aperto uno, quindi cioè, se c'è la volontà di fare si possono fare queste cose. È chiaro che ci vuole dietro comunque un'amministrazione pubblica, perché le spese di per mettere a norma questi posti, per far entrare la gente, ovviamente sono abbastanza sostenute, quindi ci vuole l'iniziativa privata e anche chiaramente il supporto pubblico. Se qualcuno è interessato, ho qui alcune copie del libro, vi invito, non abbiate paura, potete venire a vederlo, è qui a disposizione. Grazie. Posso chiedere? Sì. Mi è incuriosito, la costruzione dei rifugi anche aerei è ben prima dello scoppio della guerra, cioè? Sì. Non è che dipendesse il peso dalla, no, diciamo, guerra, dell'invasione della Polonia, poi cioè faceva parte di un progetto. Allora si usciva dalla prima guerra mondiale, quello che stava succedendo in Europa era ben chiaro a tutti quanti, quindi hanno iniziato a costruire questi rifugi proprio negli anni 30 in previsione di un possibile evento di una seconda guerra mondiale, anche perché quando scoppia la guerra non puoi costruire i rifugi, ormai è tardi, no? Però vedendo già quello che era successo con la prima guerra mondiale hanno cominciato a dire: iniziamo a pensare di costruire dei rifugi almeno nelle case nuove che possono servire un domani. Poi mano a mano che gli avvenimenti diventavano sempre più burrascosi hanno cominciato a dire: affrettiamo i lavori, cominciamo a costruire le gallerie, cominciamo a costruire i rifugi negli edifici esistenti. Cioè la guerra non è scoppiata così, insomma, il clima era quello, il clima che si respirava in quegli anni. Forse il dottor Francipane me lo può confermare, anche se era bambino, però non era sicuramente un clima di pace, no? Come era un clima di guerra entusiasta. Ecco, sì, poi avevamo un regime che sicuramente io ero figlio di una lupa, sono diventato. Non avevamo. Ero orgoglioso di esserlo, odiavo gli inglesi. Perché quello era l'educazione che ci davano, no? Si cresceva così e si aspettava la guerra. Ma la stessa cosa è successa anche con i bunker, no? Perché anche i bunker del Vallo Alpino hanno cominciato a costruire nel 38, quando Hitler si è annesso l'Austria, quindi noi siamo diventati vicini di casa dei germanici. Mussolini e Hitler erano sì alleati, ma erano un po' come il cane e il gatto, non si fidavano uno dell'altro, no? Quindi questo clima c'era, cioè lo scoppio della seconda guerra mondiale era una cosa ormai che c'era nell'aria già da tempo, era una cosa inevitabile proprio per questo modo di governare i vari stati che c'era in quegli anni, no? Adesso siamo di fronte a una situazione diversa, adesso no, qui almeno avevano le sirene che li avvisavano, adesso scoppiano le bombe e ce ne accorgiamo dopo, quindi beh, non non è che manchino i segnali, No, i segnali ci sono ancora, sì, però voglio dire, forse adesso i rifugi antiaerei sarebbero una cosa anacronistica, perché ci fanno saltare per le strade, ci fanno saltare in giro, quindi purtroppo sono cambiati i tempi, non so, non posso dire ma era meglio prima o era meglio adesso, sarebbe meglio che non ci fossero le bombe, però è così, non possiamo farci niente. Grazie ancora. Chiedo scusa, sì. Lei ha parlato dei rifugi nelle nuove costruzioni, sì, sì, anche delle trincee nella zona vecchia di Bolzano, ma la popolazione del lato tedesco quanto veniva inclusa o quanto poteva includersi? Non c'era differenza, non c'era differenza. Abbiamo delle testimonianze di persone che hanno condiviso i rifugi antiaerei. Italiani, tedeschi, lì c'era la paura, c'era la guerra, quindi queste cose tutti si dovevano riparare, quindi dove c'era un rifugio poteva entrare chiunque, sicuramente non rimaneva fuori uno perché era italiano o uno perché era tedesco. Hanno iniziato a costruire nella Bolzano Nuova perché era più facile costruire nelle case di nuova costruzione, però quando si sono resi conto che ormai la guerra era alle porte, appunto, il comune ha iniziato a costruire rifugi antiaerei nelle montagne intorno alla città vecchia, hanno iniziato a rafforzare, a puntellare le cantine proprio perché no, non c'era distinzione. Forse serve una guerra per unire le persone, non lo so io, però in quegli anni lì sicuramente non c'era distinzione.